English 24. Un saluto da Marta Cagnola e da Giulia Crivelli. Questa sera parliamo con Barack Obama. Beh, insomma, lasciamo parlare lui, perché qualche notte fa, perlomeno in Italia, era notte, ha tenuto il consueto discorso sullo Stato dell'Unione. È un discorso che è previsto dalla Costituzione americana, lo deve fare il Presidente di tanto in tanto. L'appuntamento ora è diventato un appuntamento fisso, una volta all'anno, tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio. Cosa deve dire il Presidente degli Stati Uniti? Beh, deve aggiornare il Congresso in seduta plenaria alla presenza dei membri del governo e della Corte Suprema delle condizioni appunto della nazione. Poi deve anche spiegare cosa intende fare nell'anno a venire. Quest'anno Barack Obama ha parlato immancabilmente della situazione economica, ma ha deciso di dedicare questo discorso, lo sentiremo tra poco, sembrava un po' un discorso motivazionale, un discorso fondato sulla speranza, sull'American Dream. Ma io ascolterei proprio un primo estratto da questo discorso sullo Stato dell'Unione di Barack Obama. We are part of the American family. We believe that in a country where every race and faith and point of view can be found, we are still bound together as one people. That we share common hopes and a common creed. That the dreams of a little girl in Tucson are not so different than those of our own children. That they all deserve the chance to be fulfilled. That, too, is what sets us apart as a nation. Now, by itself, this simple recognition won't usher in a new era of cooperation. What comes of this moment is up to us. What comes of this moment will be determined not by whether we can sit together tonight, but whether we can work together tomorrow. Non è la prima volta che sentiamo Barack Obama sottolineare l'essenza dell'America come un tutt'uno, nonostante le divergenze, le differenze che si sono sviluppate anche e soprattutto negli ultimi anni. Lui le ha sottolineate. Grandissimo Obama, forse ricorderete, l'avevamo proprio preso noi, avevamo preso degli stralci del suo discorso la famosa notte di novembre del 2008 quando vinse le elezioni, e qui c'è la stessa un po' energia, perché sono passati 2 anni e lui vuole ribadire quello che poi lo ha fatto vincere, cioè il superamento delle differenze. Quindi we are part of a nation to believe in, abbiamo delle credenze, we are bound together as a people, e qui notiamo l'uso di people, che vuol dire gente ma vuol dire anche popolo, e ricordiamoci sempre che è indeclinabile, quindi peoples non esiste nemmeno nel senso di popoli. E poi dice we also have a common creed è la culla, quindi quest'idea degli Stati Uniti, appunto State of the Union, United States, quest'idea fortissima di una nazione, del famoso melting pot. Poi chissà, chi è stato negli Stati Uniti sa che poi, come del resto sottolineano anche gli attentati di Tucson e non Tucson, come avrete poi notato, dice anche lui, non è poi un paese, è un paese in cui comunque le tensioni ci sono naturalmente. Comincia già a inserire nel discorso questo concetto del dream, dell'American dream. L'American dream, quindi che i dreams di una little girl in Tucson, appunto Arizona, dove c'è stato quel terribile attentato, sono poi gli stessi, e che la grande cosa è che we can sit together e poi discuss together, quindi quest'idea appunto di riuscire a parlare delle differenze, non negarle, però almeno sentirsi tutti, di avere tutti un common creed, una culla comune, e da lì cominciare per riunirsi come il Congresso in sessione plenaria, in silenzioso ascolto del grande Obama. Devo dire una cosa, una delle caratteristiche dell'American Dream è proprio il fatto che si possa partire da zero e arrivare in altissimo, e lui prende fa proprio due esempi di due persone che sono sedute appena dietro di lui. Beh, ascoltiamo cosa dice Barack Obama. We may have differences in policy, but we all believe in the rights enshrined in our Constitution. We may have different opinions, but we believe in the same promise that says this is a place where you can make it if you try. We may have different backgrounds, but we believe in the same dream that says this is a country where anything is possible, no matter who you are, no matter where you come from. That dream is why I can stand here before you tonight. That dream is why a working class kid from Scranton can sit behind me. That dream is why someone who began by sweeping the floors of his father's Cincinnati bar can preside as Speaker of the House in the greatest nation on earth. Eccolo qui con tanti applausi, dimostra proprio questo, fa due esempi di due persone che sono lì accanto a lui e dice: in America puoi raggiungere il tuo scopo, realizzare il tuo sogno, chiunque tu sia. Quindi you can make it, to make it vuol dire letteralmente farlo, ma in realtà è farcela, to make it, you can make it, tu puoi farcela, no matter who you are, e non importa chi tu sia, no matter prima di qualcos'altro vuol dire appunto no matter what you eat, no matter who you are, quindi no matter what you eat, non importa quello che mangi, no matter who you are, non importa chi tu sia, è appunto come un working class kid, quindi un figlio, le diremo noi in italiano, un figlio della classe, come della classe operaia, diremmo in italiano, ecco, come quel signore che siede dietro di me, che ha visto questo discorso. Dietro Barack c'era il mitico Joe Biden, che appunto è di Scranton, piccolo paese della Pennsylvania, dove lui ha iniziato come senatore democratico del suo stato, appunto, ed era, e queste sono le sue origini, niente di cui vergognarsi, anzi lo si dice in diretta planetaria, e appunto, anzi, non solo non ci si vergogna, segue applauso. E la stessa cosa vale per John Boehner, che era seduto anche lui dietro Obama. Dal 5 gennaio, dopo le elezioni che hanno stravolto gli equilibri all'interno del Congresso, Speaker of the House, cioè come il presidente della Camera, è l'equivalente più o meno, repubblicano, è lui che ha begun sweeping the floors, to sweep vuol dire scopare, quindi lavare, scopare i pavimenti del negozio del padre. E tutto questo però, diciamo, è il capitolo dell'American Dream. Non nasconde Barack Obama che stiamo vivendo tempi difficili, e lui ne dà una descrizione, direi addirittura quasi poetica, ma sicuramente drammatica. Eccolo qua. People watching tonight can probably remember a time when finding a good job meant showing up at a nearby factory or a business downtown. You didn't always need a degree, and your competition was pretty much limited to your neighbors. If you worked hard, chances are you'd have a job for life, with a decent paycheck and good benefits, and the occasional promotion. Maybe you'd even have the pride of seeing your kids work at the same company. That world has changed, and for many, the change has been painful. I've seen it in the shuttered windows of once booming factories, in the vacant storefronts on once busy main streets. I've heard it in the frustrations of Americans who've seen their paychecks dwindle or their jobs disappear. Proud men and women who feel like the rules have been changed in the middle of the game. They're right. The rules have changed. The rules have changed, le regole sono cambiate, perché parla di un tempo neanche tanto lontano in cui vivevamo in maniera molto diversa da oggi. Quindi a time when finding a job was easy, quindi trovare un lavoro era abbastanza facile, was enough to show up, quindi semplicemente di presentarsi. To show up vuol dire show, naturalmente è lo spettacolo, to show up però è un phrasal verb che vuol dire presentarsi, quindi to show up at a job interview, per esempio, oppure andare in un posto dove c'era scritto fuori cercasi addetti, entrare e avere il lavoro. There was pretty much no competition. Pretty much è un modo che significa praticamente, noi diremmo in italiano, quindi praticamente non c'era competition, e tu in quel non lontano tempo avevi un paycheck, che letteralmente è l'assegno dello stipendio, perché per moltissimi americani comunque alla fine del mese lo stipendio non viene accreditato, ma gli viene dato proprio un assegno che poi loro possono accreditare. Anche un modo, suppongo, per risparmiare sulle commissioni bancarie per le aziende, naturalmente. E poi Barack Obama cosa fa? Descrive questa atmosfera invece di oggi, ben diversa, questa appunto atmosfera con le regole cambiate. Quindi queste shuttered windows, to shutter vuol dire chiudere, ma addirittura proprio chiudere in un modo definitivo, cioè chiudere in modo ermetico, quindi queste vetrine che si chiudono, questi storefront, che anche lì noi possiamo sempre tradurre come vetrina, però dà ancora più l'idea, proprio è la facciata dei negozi, quindi quando vediamo appunto le saracinesche abbassate, diremmo noi, e questa idea che il tuo lavoro dwindle, quindi il tuo lavoro vacilla, perché sappiamo tutti che in America, ma forse non soltanto in America, è molto facile oggi venire licenziati da un giorno con l'altro, quindi vedere appunto il proprio posto di lavoro sempre più fragile e vacillante, quindi dwindling. Un passaggio, dice Barack Obama, molto doloroso. Quindi painful, pieno di dolore, pain il dolore, painful, pieno di dolore, quindi doloroso, così come potremmo dire painless se fosse indolore, in questo caso naturalmente non lo è. Eppure Barack Obama, lo dicevamo, ha puntato il suo discorso sulla speranza, sui sogni, nonostante questo passaggio che ci rammenta quanto è difficile la realtà d'oggi, anche negli Stati Uniti, ancora Barack Obama. From the earliest days of our founding, America has been the story of ordinary people who dare to dream. That's how we win the future. We're a nation that says, I might not have a lot of money, but I have this great idea for a new company. I might not come from a family of college graduates, but I will be the first to get my degree. I'm not sure how we'll reach that better place beyond the horizon, but I know we'll get there. I know we will. We do big things. The idea of America endures. Our destiny remains our choice. And tonight, more than two centuries later, it's because of our people that our future is hopeful. Our journey goes forward, and the state of our union is strong. Thank you, God bless you, and may God bless the United States of America. Beh, insomma, ovviamente si conclude con la formula di rito, ma è importante anche e soprattutto quello che lui dice dell'American Dream. Questo sogno è quello che fa appunto puntare a un college degree, quindi letteralmente una laurea al college o comunque un corso al college. Sapete che è complicatissimo il sistema universitario americano, comunque un corso all'università a persone che magari non avevano college graduates all'interno della loro famiglia, cioè che non avevano persone che erano state all'università. Questa idea di reach beyond, di andare oltre, come la canzone dei Ram, The Great Beyond, il grandissimo oltre. Ecco, gli americani guardano sempre oltre, hanno ancora la capacità di sognare, almeno il Obama sicuramente. E mi piace molto questo utilizzo del verbo to dare, quasi che ci si rendesse conto di quanto è difficile, ma bisogna, come possiamo tradurlo, osare, avere il coraggio di sognare. Perché, dice lui, ma credo che sia ancora vero, l'American Dream endures, cioè dura, il sogno americano dura ancora. Se poi, insomma, vediamo quante persone giovanissime, pensiamo a Facebook, che è forse l'esempio migliore, con il suo fondatore che ha 26 anni, persona dell'anno 2011, insomma una grandissima storia di successo a 26 anni, quindi proprio ieri, quando potremmo dire già c'era la crisi economica, però insomma il grande business story viene ancora dagli Stati Uniti, quindi ha ragione Obama, sono ancora forse gli unici che hanno questo, del mondo occidentale, hanno ancora questo coraggio, questo di osare, dei dare to dream, quindi anche agli italiani diciamo osiamo sognare, we have to dare to dream. E così si conclude con questa incitazione al sogno anche la nostra puntata di English 24. Ringrazio Carmelo Lauricella in regia, vi ricordo l'appuntamento con il nostro English 24 anche in edicola, da Marta Cagnola e Giulia Crivelli. L'appuntamento alla prossima puntata.